passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzolette bianche che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, come è possibile avere fra le braccia tanto felicità. Baciare le sue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun altro. Dio, come ti amo, mi viene a piangere. Yeah.